fido degli uccelli che migrano, mi fido di te, dell'alba che annuncia l'aurora, mi fido di te e dimentico bussola e latitudine. Abitudine diventa libidine. Le spiagge e il nord, l'inverno in silenzio, atlanticamente suonano immenso, un oceano appare di ricordi e si vola, i piedi nell'acqua, un occhio alla vela, a rincorrere il mare quando scopre maree, a riderci addosso, chi arriva primo prende il posto, all'ora di cena andavamo a pranzo, aragoste per primo, poi il profumo del vento. Lai, lai, lai, lai, lai, lai. Facendo la neve sul mare del nord, i gabbiani nel porto, né ali a cielo aperto, sulla spiaggia un mantello di rose d'inverno, vieni sotto che nevica, sotto il mio ombrello, e la terra col sole si è sposata la notte, e la luna già piena prega Dio che la sorte, ogni albero al vento china la chioma, la neve sul mare si scioglie divina. La la la.